vestiti pure di viola prima di andare in scena. Basta che menti la sera come quando svaligiamo l'ipermercato di Caserta Sud, felici per l'ampio parcheggio gratuito. Nuda potresti sfregiare il mio cattivo umore. Basta che menti la sera come quando doppiavamo i giornalai alla televisione in attesa. Basta che menti la sera come sempre.